sono in coscienza, girare in centro pieno nella testa, con i vuoti di memoria e di coscienza, rinchiusi dentro una saletta, come fossimo a una setta. I tempi erano distorti, non in linea retta, bianchi come morti, fatti come pochi, fatti pochi, ancora troppo giovani negli occhi. Coglievamo solo l'attimo fuggente, su un palco raccontarlo senza che la gente giù ne capisse niente. Prima che sconosasse le lamette, senza salari né orari, da sgarto dipendente, ancora prima che rischiassimo insieme le manette, zero cosciente dentro il cranio, niente. Sarà che cambio habitat, aria più sana e matida, che sommano materia grigia, grigio che ho nell'anima. Cosciente di essere insano, di essere imperfetti, ma sono quello che vedi, vero, con i miei difetti. Trovavo sana l'incoscienza, la mia coerenza, senza la testa tutto cambia l'apparenza. È così, ma è così, ma è così, ma è così, ma è così, ma è così, ma se ancora questo fa testo, ancora testo la testa, per quanto credo che resta, ancora tengo la bestia. È così, ma è così, ma è così, ma è così, ma è così, ma è così, ma mi sono messo una panchina, quell'aria da paraffina, la gola bruciava amara come fosse Novalgina. Sarà che in fondo il mondo era solo dei vecchi, sarà che un futuro era presto per avere. La scuola devi ossede, la prof, ma chi la vede? Tornavo a casa distrutto con gli occhi nel cherosene. La testa gira roulette, lo zaino mi copriva le spalle, dentro mi seguiva il busto panette. Gli anni d'oro della chiarta oro compravo con 5.000, la smini di sola andata giù a polo. Sono tempi che non cambi come BPM, sono passati come i primi GSM, come le mode delle droghe qui ad F. E scoperto le stesse, ma non sono le stesse che condividevo nei momenti di sclero, sana coscienza, finché tutto frutto del mio pensiero. Trovavo sana l'incoscienza, la mia coerenza, senza la testa tutto cambia l'apparenza. È così, ma è così, ma è così, ma è così, ma è così, ma è così, ma se ancora questo fa testo, ancora testo la testa, per quanto credo che resta, ancora tengo la bestia. È così, ma è così, ma è così, ma è così, ma è così, ma è così, ma chi ripudia ragionare per non prendersi la colpa, o più semplicemente perché non mi importa. La fitta è andata storta e con le botte non si drizza. La coscienza muore come altro nella rissa, il teatro degli orrori dove guardi e non parli. Il massacro e la coscienza, se ci pensi ti sbaglio. Un secondo di troppo a volte non serve, un alto di troppo ti salva la pelle. C'è sempre una coscienza dietro una rivoltella, c'è sempre una cella per qualche spaccarotella. Una tabula che mangia questo scempio italiano, dove non sempre chi giudica cosciente, sei in testa insano. Occhieggia potere, fame, denaro, ma non gli basta, così passa col diavolo e ci ammazza. Metà Ferrari sana, metà Ferrari insana, coscienza di una donna, coscienza di puttana.